Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma di Radio 24 che cerca di raccontare settimana dopo settimana la nostra realtà di lavoro, quali che siano i lavori che facciamo e il bilanciamento con il fatto che molti di voi che ci ascoltano sono donne e il lavoro e vita privata, vita familiare, cambiamenti nel lavoro visti da un'ottica femminile, senza dimenticare che una delle grandi fregature per le donne, lo diciamo ormai da 3 anni ma insistiamo caparbiamente, è di voler fare tutto e pensare di fare tutto bene. Nessuna è perfetta, si chiama così per ricordarci che anche essere imperfetti è una cosa con la quale convivere. La perfezione è stancante, è stressante e quindi abbasso il multitasking. Abbasso il multitasking anche perché nella nuova dimensione di lavoro che ci attende ci verrà richiesto di concentrare i neuroni che ci restano nell'apprendere nuove cose. Sì, perché questa domenica vogliamo parlare di industria 4.0, di intelligenza artificiale e valutare insieme le molte paure che vi confido anch'io ce l'ho, perché quando leggiamo nei prossimi 10 anni, secondo uno studio della McKinsey, il 50% dei lavori potrebbero essere svolti da robot e che quindi una gran parte di lavoratori, di persone che sono oggi utilizzate in aziende grandi e piccole potrebbero non servire più, un po' di inquietudine viene. Poi però vediamo anche che nuove opportunità di lavoro possono nascere. E dunque abbiamo ragione ad avere un po' di inquietudine, ma dobbiamo saperne di più. Motivo per cui il nostro agente provocatore di questa domenica è proprio l'uomo giusto alla trasmissione giusta. Benvenuto, buona domenica, Paolo Gallo, responsabile delle risorse umane del World Economic Forum a Ginevra, autore della Bussola del Successo, un saggio assai popolare di grande successo appunto che aiuta a districarsi nelle grandi e piccole trappole del mondo del lavoro. Ma noi con Paolo Gallo oggi vogliamo parlare soprattutto di quello che ci sta accadendo e ci succederà nella nuova dimensione di lavoro con una grande presenza di intelligenza delle macchine. Grazie mille per avermi invitato di nuovo alla vostra trasmissione, quindi sono molto riconoscente, grazie dottoressa Latella. Dunque Paolo, il punto di vista che vorremmo approfondire con te è: facciamo bene ad avere paura e essere inquieti per il fatto che appunto l'intelligenza delle macchine, quello che noi chiamiamo artificial intelligence, sorpasserà quella dell'essere umano e quindi cominciamo a sentirci un pochino superflui noi esseri umani, soprattutto noi esseri umani che non siamo nativi digitali. E le donne saranno un po' avvantaggiate dall'essere, come dire, più elastiche, più disposte a tornare a scuola, a capire le cose, a mettersi lì a imparare? Io credo che ci siano due campi ben distinti e contrapposti. Da un lato ci sono i pessimisti, quelli che, tra cui il fondatore di Tesla, molto pessimista su questi campi, che dicono non soltanto che i lavori verranno distrutti, stanno già scomparendo, ma che l'intelligenza artificiale, non essendo controllata, poi governerà il mondo. Quindi una visione quasi apocalittica di quello che succederà. Sì, Elon Musk dice che l'intelligenza artificiale potrebbe causare la terza guerra mondiale. Il fondatore di Tesla è veramente molto inquieto e anche un po' inquietante. Lo è, e anche dei motivi plausibili e veri per argomentare queste cose. E poi ci sono gli ottimisti, quelli che vedono grandi opportunità, grandi cambiamenti, più velocità, più risultati, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente ci sono due campi distinti. Io credo, questa è la mia impressione personale, anche basata al lavoro che faccio, anche il libro che ho scritto, che abbiano ragione tutti e due. Nel senso, è assolutamente vero che l'intelligenza artificiale sta facendo scomparire a una velocità probabilmente straordinaria molti dei lavori, delle professioni che esistevano e che esistono tuttora e che stanno per scomparire. Io ho una bambina di 10 anni che probabilmente farà un lavoro che al momento non esiste ancora, o magari sta studiando per un lavoro che pensa di fare e magari poi non farà. Dall'altro lato è altrettanto vero che ci sono grandi opportunità e grandi, diciamo, nuove scoperte che vengono fuori quotidianamente, no? Quindi la domanda, e questo è un studio che abbiamo fatto qui a World Economy Forum e che si collega anche alla vostra domanda sul ruolo delle donne: quali sono le skills, quali sono le capacità che diventeranno premianti nei lavori del futuro? Sostanzialmente sono quelli che non hanno le macchine. Quindi cosa hanno l'artificial intelligence? Hanno velocità, hanno accuratezza delle informazioni, hanno la capacità di gestire dati in una maniera straordinaria e impensabile fino a pochi anni fa. Questo però lo sa fare un robot, lo sa fare una macchina. Esatto, io e un robot nella corsa a gestire dei dati non ci mettiamo, cioè non mi metto certo in competizione, perché in un nanosecondo processa una quantità di dati che io non riuscirei a fare in tutta la mia vita, anche per le mie modeste qualità aritmetiche. Esatto, però quello che è venuto fuori da uno studio che abbiamo fatto, che si intitola The Future of Jobs, quindi il futuro del lavoro, e che poi ha come sottotitolo The Job of the Future, quindi il lavoro del futuro, è molto interessante il risultato di questa analisi che noi abbiamo fatto, perché viene fuori che quello di cui avremo bisogno saranno la capacità critica, la creatività, la capacità di coordinarci con gli altri e l'intelligenza emotiva, che sono sempre qualità che hanno le donne più degli uomini. Adesso non voglio generalizzare dicendo che le donne sono bianche, blu e gialle, gli uomini sono di colore diverso, però è vero che la capacità di collaborare con gli altri, quindi di lavorare in un team, è una capacità molto femminile, molto più di quella maschile, che pone un'enfasi sulla competizione, sulle gare, eccetera. La capacità critica, in altre parole, la capacità di analizzare i dati a disposizione e poi trarre delle conclusioni basate su dati, non solo su magari su impressioni. Certo, però Paolo Gallo, in un articolo che tu hai firmato, leggo: dovremo continuare a imparare tutta la vita. In altre parole, per bilanciare il machine learning dobbiamo diventare noi delle learning machine, cioè delle macchine in continuo apprendimento. Nell'ultima domanda che abbiamo a disposizione prima di salutarci, che significa apprendimento continuo? Due cose veloci. La prima è che noi siamo almeno persone della mia generazione, hanno pensato, io ho 54 anni, uno studia fino ai 22-24 anni, poi si laurea, lavori 30 anni, va in pensione sperando di goderti poi gli ultimi anni della vita. E adesso tutto è cambiato, perché innanzitutto l'aspettativa di vita è molto cambiata e molto aumentata. In secondo luogo, perché le pensioni probabilmente non verranno più pagate o saranno molto più basse rispetto alle aspettative e vengono pagati sempre più tardi. Questo significa che la nostra vita professionale non è più di 30-35 anni, ma diventerà di 50 o di 60 anni, che allo stesso tempo un prospetto sia preoccupante che eccitante. Cosa vuol dire? Che non possiamo semplicemente pensare di aver preso una laurea, di appendere un diploma al muro, di essere, tra virgolette, tranquilli, continuare a investire nella nostra conoscenza. in parte viene fatto attraverso un apprendimento formale, università, diplomi, master, altri invece nel continuare a uscire fuori dal comfort zone, dall'area in cui non siamo tranquilli, dalle nostre così occupazioni quotidiane, e continuare a imparare, a investire parte del proprio tempo a leggere, a studiare, a confrontarci con gli altri, a leggere giornali magari che sono un po' diversi da quelli che noi facciamo, a essere continuamente curiosi nell'apprendere cose nuove, non soltanto nell'azienda di cui noi facciamo parte, ma anche fuori, e confrontarci con altre persone. Quindi ci stai provocando, caro agente provocatore, per stimolarci a non considerare come dire, raggiunte le nostre competenze, ce ne sono sempre di nuove che dovremo acquisire. È una vita faticosa, però. No, questo è vero, Maria, lo dico con rispetto, però anche divertente, perché se ci pensi, il bello della vita è continuare a fare cose nuove e a ricominciare, come tu hai scritto nel tuo libro. Grazie per aver citato anche Fatti privati e pubbliche tribù, il libro che ho scritto, che è in libreria da pochi giorni. Abbiamo fatto anche un piccolo spot autopromozionale. Grazie a Paolo Gallo, buona domenica. Grazie. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Questo è il momento della Sunday Girl e ci prendiamo una pausa, e invece di parlare ancora di lavoro e intelligenze artificiali, vaghiamo un po' con la fantasia, perché la nostra Sunday Girl di questa domenica è una regina cattiva, cattivissima. La nostra regina cattiva è Sonia Bergamasco, che recita nel film di Roberta Torre, Riccardo va all'inferno, un musical molto dark ispirato al Riccardo III di Shakespeare, ambientato in un castello alle porte di una città malvagia anche, che sembra essere proprio Roma. Il castello è molto decadente, la famiglia è una stirpe di alto linaggio che gestisce un florido traffico di droga e di malaffare. Ciao, eccoti, Maria. Ciao, come stai? Bene, bene. Allora, la regina cattiva. Devo dire, affascinante l'idea del castello con questa aristocratica famiglia che gestisce un florido traffico di droga e malaffare. Lo trovo... cioè un adeguamento alla realtà affascinante, chissà quanto reale. Ma sai, una parte da Riccardo III questa riscrittura, e poi mantiene un'idea di costume, comunque un approccio anche grottesco di racconto, ma poi cerca di indagare i temi del potere, della follia, della violenza, del male, e tutto anche con una forma di divertimento che è dato da questa forma che Roberto ha voluto dare al film di opera musicale. È un film musicale più che musical, perché si canta, si balla, direi che è il primo Riccardo III cantato e ballato. Sicuramente. Dunque, la regina madre, che è appunto interpretata da Sonia Bergamasco, è una grande tessitrice di equilibri perversi. Shakespeare è maestro nelle figure femminili di grande perfidia. Che cosa, a parte Shakespeare, che di per sé è una gran bella ispirazione, c'è un altro personaggio che ti ha aiutato a entrare nei panni di questa regina madre perfidissima e tessitrice di trame? Beh, diciamo che abbiamo attinto e abbiamo preso ispirazione sicuramente da due figure del cinema, due figure femminili di fortissima personalità come Bette Davis, da una parte, e invece la francese Jean Moreau, entrambe perfide fumatrici, e che soprattutto in vecchiaia hanno offerto una maschera anche fisica, anche proprio visiva, di un femminile forte, potente, agguerrito e spesso anche in negativo. E quindi sicuramente queste sono state di ispirazione per poi arrivare a una regina madre, una madre di Massimo Ranieri peraltro, che per me doveva insomma essere anche un'invenzione e una trasformazione fisica potente. A proposito di trasformazione fisica, quante ore di trucco sono servite? Sì, perché effettivamente è un bel record. La mia prima volta con gli effetti speciali e con una sessione di trucco prima di cominciare a lavorare di 4 ore e mezzo, 5 per volta. 4 ore e mezzo prima di cominciare il set? Sì, certo. E quindi insomma un'immersione anche quella, cioè una trasformazione che poi mi aiutava a arrivare in scena. Mentre ci salutiamo e salutiamo la nostra Sunday Girl di questa domenica, devo però rimproverarla un po', perché cinema, teatro, TV, attrice, musicista, regista adesso, anche regista, è vero? Sì, regista in teatro da tempo. E finalmente quest'anno regista non solo di me stessa, sì, ma anche di una compagnia, di altri 5 compagni di strada, 4 cantanti e attrici, le Farawalla, che sono un gruppo formidabile di vocalist pugliesi che conosco, il cui lavoro conosco da moltissimi anni e che è molto apprezzato, e che saranno in scena anche come attrici, con Rodolfo Rossi, musicista anche lui, ma attore anche lui per questa occasione, per raccontare una storia tutta femminile, si intitola L'uomo seme, un libricino che è una storia vera di cui mi sono perdutamente innamorata 3 anni fa e che da allora ho coltivato per far nascere questa forma di scena che presento a Milano al Teatro dell'Arte il 16 gennaio prossimo. Ah bene, allora anticipiamo che ci sarà anche una Sonia Bergamasco regista teatro in scena con di nuovo la musica molto presente. Sì, assolutamente. Sì. È proprio un racconto teatrale, però in musica. In musica, proprio come il film del quale abbiamo parlato. Ecco, però il rimprovero che mi permetto di fare il multitasking, cioè quante vite? Una sola. Ma più dimensioni, per non annoiarsi mai, questo è il sospetto, vero? Sì, ma non mi sembra, in verità non mi sembra di fare molte cose, nel senso che sto seguendo una strada, ecco, è la mia, è quello che posso fare io. Grazie a Sonia Bergamasco, che vedremo allora con L'uomo seme a teatro a Milano a metà gennaio, ma intanto la vediamo come cattivissima regina madre nel Riccardo Vall'Inferno. Buona domenica, grazie. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, di come vivere professionalmente con i robot e sapere se questo sarà un vantaggio o uno svantaggio per il futuro professionale di molte donne. Ne parliamo appunto con una donna, pensate, la prima donna a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di Microsoft Italia. Silvia Candiani. La prima cosa che vorrei chiederle è che effetto avrà sull'occupazione femminile, secondo lei, il fatto che moltissimi lavori, secondo lo studio che citavo poco fa, lo studio di McKinsey, moltissimi lavori spariranno. Questo sarà un vantaggio o uno svantaggio per le donne che già pagano una sottooccupazione, no? Certo. Allora, io penso che l'intelligenza artificiale AI sia un'opportunità, sicuramente sta arrivando e quindi dobbiamo farci i conti, diciamo, in qualche modo proiettarci verso il futuro. È vero che ci saranno dei lavori che scompariranno, è anche vero che però se ne creeranno di nuovi, quindi io credo che il saldo sarà complessivamente positivo. Questa è stata l'esperienza di tutte le rivoluzioni industriali precedenti, in particolare di quella del digitale che degli ultimi anni, e quindi le nuove professionalità saranno però diverse e quindi che richiederanno delle competenze diverse, più nel mondo del digitale, dell'analisi dei dati, della interazione uomo-macchina, della programmazione e così via. Cosa vuol dire questo per le donne? Allora, oggi le donne hanno una minore propensione a fare studi STEM e quindi c'è una minore presenza di donne nell'ambito più propriamente matematico-scientifico. Quindi questo può essere un problema. Lei in che cosa è laureata? Io sono laureata in economia e commercio e ho un master in Business Administration, MBA, e in realtà ho fatto, diciamo, delle esperienze professionali proprio nell'ambito dei dati e della data science. Quindi il futuro è quello che ha fatto anche lei, cioè un costante apprendimento anche da adulti. Bisognerà continuare a studiare, a fare l'adult learning, come dicono gli inglesi. È assolutamente così. Quindi, da un lato, puntare su facoltà scientifiche nel corso di studi, perché dobbiamo assicurarci che le persone che fondano l'università, le donne che fondano l'università, abbiano le giuste competenze. Dall'altro, non siamo più in un mondo in cui si finisce di studiare e si entra nel mondo del lavoro, ma sempre bisogna continuare a mantenersi aggiornati e quindi continuare a prepararsi. Qual è l'impatto del digitale, delle analisi sui dati, qual è l'impatto dell'artificial intelligence, e quello che stiamo disponendo con le aziende, con le grandi aziende, per esempio, di creare dei meccanismi di academy, diciamo, di formazione permanente all'interno dell'azienda, proprio per continuare a far sì che le persone imparino e continuino ad imparare. Credo che però una piattaforma di formazione permanente sia molto importante per il paese, e su questo stiamo ragionando e lavorando, per esempio con il supporto di LinkedIn, che è stata acquistata da Microsoft e che è una piattaforma leader con linda.com per corsi online, per esempio. Quindi secondo me il monito che darei a tutti è di continuare a prepararsi, a studiare per essere preparati per i lavori di domani. Dunque, in chiusura, vorrei capire qual è la sua posizione tra gli apocalittici, che come Elon Musk, l'inventore di Tesla, dice, pensano che l'intelligenza artificiale potrebbe essere la causa della terza guerra mondiale, e quella, diciamo, media del fondatore di Microsoft, Bill Gates, che si limita a proporre una tassa sui robot. Intanto, il senso di questa tassa qual è, e poi cosa ne pensa lei? Io penso che in generale sono ottimista sull'impatto della intelligenza artificiale, credo che però vada governata. Quindi il nostro posizionamento come Microsoft è di pensare all'intelligenza artificiale come a un'estensione delle capacità delle persone, non una loro sostituzione, e quindi come dare un po' l'X Factor, il potere straordinario alle persone per essere più efficaci nel loro lavoro. Credo che però le questioni etiche siano importanti, questo è il motivo motivo per cui Microsoft, come altre grandi aziende americane, tra cui appunto la stessa Tesla, partecipa a un forum non profit che si chiama OpenAI, che ha proprio il senso di mettere insieme tutte le aziende e gli opinion maker per capire quali debbano essere i limiti da mettere all'intelligenza artificiale, proprio per evitare che, come dire, prenda sopravvento, ma rimanga un'estensione delle capacità delle persone e non, come dire, non una specie di tirannide sugli esseri umani, la tirannide dei robot su noi. Fantascienza. Grazie Silvia Candiani, la prima donna amministratore delegato di Microsoft in Italia. Grazie, buona domenica. Grazie mille, buona domenica a tutti. E continuiamo a parlare di intelligenza artificiale e lo facciamo con Brunello Cucinelli, imprenditore, filantropo e umanista, fondatore dell'omonima ben conosciuto brand del cashmere e non solo. Brunello Cucinelli è stato l'unico ospite italiano della Dreamforce Conference 2017 di San Francisco. Sono stati 4 giorni di ispirazione, di crescita, di innovazione nella Silicon Valley. Che cosa ha imparato e poi che cosa possiamo immaginare sul mondo del lavoro con l'intelligenza artificiale? Grazie veramente di cuore. Intanto volevo dire che un annetto fa ci vedemmo con questa quindicina di ragazzi della Silicon Valley. Della Silicon Valley, sì, che vollero fare una cena per me e in questa cena mi chiesero: ma tu che cosa pensi della rete, cosa faresti? Allora dissi loro: voi in qualche maniera siete i nuovi Leonardo contemporanei, ma guardate, Leonardo era un umanista, chi di voi riuscirà ad umanizzare la rete forse sarà il Leonardo contemporaneo. Dopodiché quest'anno sono stato invitato in questo magnifico, diciamo, meeting per 3 giorni e in questo teatro a confronto con Mark Benioff, proprietario e fondatore della Salesforce, abbiamo discusso di umanissimo tecnologia e ho detto loro una cosa importante: guardate ragazzi, io sono qui nella culla del genio senza dubbio, ma vi pregherei a nome dell'umanità di riunirvi, discutere, di indicarci come poter utilizzare queste tecnologie perché non ci rubino quell'anima che il creato ci ha dato, perché in realtà io penso questo: guardate, lavoriamo troppo, siamo troppo connessi e quel mal dell'anima con cui l'essere umano deve convivere da sempre nella storia, adesso vi è questo mal, questa pesantezza informatica che l'ha acutizzato. Una delle cose che mette ansia alla gente di ogni generazione è che se non lavori non guadagni, se non guadagni non vivi. Secondo un report Merrill Lynch, l'intelligenza artificiale, cioè i lavori automatizzati, ridurrà fino al 47% dei lavori attualmente in essere negli Stati Uniti. La domanda è: per esempio, in una azienda come Cucinelli, che ha creato il Borgo Solomeo, che dà grande attenzione al capitale umano, avete previsto che l'automazione, l'intelligenza artificiale potrebbe un domani ridurre di molto la vostra forza lavoro? Guardi, ci lavoriamo ogni giorno. Ma io credo seriamente questo, guardi, che tutti noi andiamo alla ricerca sempre più di prodotti in tutti i settori, dall'agroalimentare all'abbigliamento, sempre che abbiano un contenuto artigianale, esclusivo, un po' particolare. Tutto questo non si può fare con il computer. Abbiamo bisogno di andare a cercare l'albicocca buona, l'abito fatto in un modo senza recar danni all'umanità o il meno possibile. Quindi non sono per niente preoccupato. L'uomo governa, come dice Einstein, sempre tutto ciò che sarà l'umanità. Ecco, lei ha spesso invitato ad un ripensamento degli orari di lavoro e da questo punto di vista ovviamente l'avvento di intelligenza artificiale, di robot, forzatamente ridurranno, no, i tempi del lavoro. Ma la domanda è: chi paga? Chi tiene in vita tutte queste persone che lavoreranno meno e che faranno del loro tempo se proporzionalmente guadagneranno meno? Non sono per niente preoccupato, io penso che ognuno di noi al lavoro forse perde il 20% di tempo in niente. La tecnologia ci ha resi, è qualcosa che è un dono di Dio, ma guardate che in qualche maniera ci ha complicato l'efficienza delle cose. Noi il 20% del tempo lo dedichiamo a niente, quindi non dobbiamo preoccuparci. Noi abbiamo bisogno di recuperare la qualità della vita normale, abbiamo bisogno di lavorare normalmente, come dice San Benedetto, cura ogni giorno la mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il lavoro. Abbiamo bisogno di lavorare normalmente, perché se lavoriamo normalmente siamo riposati, se andiamo al lavoro riposati abbiamo la cultura di ascoltare, se ascoltiamo siamo più fortemente creativi, quindi non ho nessun dubbio sul futuro. Credo invece questo: abbiamo provato ad immaginare di governare l'umanità solo con la scienza e proprio adesso ci siamo accorti, come dicevano questi ragazzi della Silicon Valley, che dobbiamo fondere scienza e anima, quindi da una parte, se volete, l'anima di Rousseau alla scienza di Voltaire, l'anima di Dioniso alla scienza di Apollo. Non abbiate paura, io credo seriamente che avremo un secolo d'oro, perché uniremo mente e anima, quindi non ho nessun dubbio su questo. Restando invece alle notizie di questa settimana, ed è l'ultima domanda, il numero degli occupati a termine è, secondo i dati Istat, di 2,8 milioni, è il dato più alto degli ultimi anni, però sono occupati a termine. Dobbiamo essere contenti o comunque un po' preoccuparci per il fatto che il termine significa non poter fare progetti sul lungo periodo per questi giovani che, per esempio, hanno trovato lavoro? Guardi, io credo che noi viviamo nel miglior stato sociale al mondo, che è la nostra Italia. Sono leggermente preoccupato perché la nostra disoccupazione è alta, ci vorrebbero 3 o 4 punti in meno. Però dico questo, internet ha cambiato l'umanità, abbiamo ridisegnato la mappa mondiale del lavoro e ci siamo resi conto che non possiamo più produrre manufatti di basso livello. E d'altro canto abbiamo investito quasi esclusivamente in servizi e abbiamo bisogno della metà di questi servizi. Ripartendo da lì, investendo in manufatti, perché i nostri manufatti in tutti i settori siamo i più bravi manufatturieri al mondo nella fascia alta in tutti i settori, siamo secondo manufatturieri solo alla Germania, quindi pensate che meraviglia, c'è un grande tema. Per fare manufatti speciali abbiamo bisogno di esseri umani speciali, abbiamo bisogno di esseri umani che al lavoro vengono trattati con dignità morale. E abbiamo bisogno di formazione soprattutto. Abbiamo bisogno di formazione, ma lei consiglierebbe a un ragazzino di 23 anni di andare a lavorare per 980 euro facendo il lavoro a volte anche, diciamo, moralmente non eccezionale? E da lì dobbiamo ripartire. Quindi, se dovessi dare un consiglio come papà alle nostre ascoltatrici, lei che poi c'ha due figlie, no? Quindi sì, io dico questo, guardi, che noi abbiamo fatto due gravi errori. Il primo, abbiamo detto ai nostri figli, inculcato l'arte di aver paura. Sostituiamo da domattina la paura con la speranza, perché la vita deve essere fatta con questo. E poi c'è un altissimo grande tema, abbiamo detto a loro: non studi, andrai a lavorare. Al lavoro abbiamo imputato tutte le pene per non aver studiato. Ecco, se ripartiamo da lì, se arriviamo dignità morale ed economica al lavoro, io non ho dubbi che il mondo intero è affascinato dai nostri manufatti, dal nostro modo di vivere, dal nostro pensiero. Grazie Brunello Cucinelli, buona domenica. Grazie. Auguri anche a voi e che il creato ci illumini. Grazie e buona tarde. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci, ultima parte di Nessuna è perfetta, lo sapete, è il momento della nostra coach. Bentornata Carla Ciani, le tre pillole della nostra coach per affrontare senza troppa paura, come dice Brunello Cucinelli, il confronto con l'avvento delle intelligenze artificiali che, c'è poco da dire, porteranno via dei lavori, speriamo che ne creino altri. Buona domenica Maria e buona domenica a tutti. La prima pillola è non considerare questo un impatto, ma sentirci dentro un'evoluzione informatica. Quindi dobbiamo rafforzare il nostro impegno a saperne di più, aggiornarci in modo puntuale e quindi incrementando la nostra conoscenza essere in grado di comprendere in modo oggettivo i benefici e i rischi dell'intelligenza Carla artificiale. Ciani, penso alle nostre ascoltatrici, mi metto tra loro. Un consiglio per quelle che partono avendo, diciamo, il pregiudizio di essere poco tecnologiche, perché si dice le donne e la tecnologia non funzionano, e magari non essendo native digitali, cioè avendo comunque più di 40 anni, dicono non ce la farò mai a diventare davvero parte di questa evoluzione. Ma anche se lo dicono, di fatto lo sono, perché forse la difficoltà è ancora mettere insieme la nostra vita privata con la vita lavorativa, che è uno dei nostri temi, ma tutte noi vogliamo la lavatrice intelligente, il robot aspirapolvere, utilizziamo lo smartphone, insomma siamo tutte molto, molto più sicure se abbiamo in auto un sistema di riconoscimento visivo, per cui il carrozzino che attraversa, insomma, qualcuno ce lo fa evitare perché l'auto frena automaticamente. Sappiamo, no, che cosa significa la tecnologia e l'intelligenza artificiale nella medicina, nel supporto alla chirurgia o nel supporto alla disabilità, no? In questo senso siamo già dentro, no, questo sì, grande cambiamento, però dobbiamo, ecco, forse saperne di più significa avere un approccio più consapevole e non lasciarsi prendere, ecco, forse questo è un aspetto più femminile, dall'autoconvincimento di non farcela. No, il convincimento di non farcela è un meccanismo di difesa, no? Poi siamo anche disponibili un po' a vacillare tra l'attrazione e il panico, no? Sì. Abbiamo questa idea un po' fantascientifica del robot che possa sostituire. Devo peraltro dirti che questo robot Sofia, no? Stimola anche questo senso di attrazione o di panico. È veramente curioso come questo robot abbia nel 2017 sembianze femminili, rassomigli a Audrey Hepburn, e l'Arabia Saudita dia la cittadinanza onoraria a questo robot, no? Quindi, quasi preferendo un robot donna alle donne vere? Sì, perché le donne, veramente, se facciamo una riflessione, magari lì le donne in carne e ossa, insomma, hanno anche un cervello e delle idee sì, proprie. Poi, Carla Ciani, per aiutare anche, no, a superare il panico nei confronti dell'avvento delle intelligenze artificiali, un consiglio pratico: leggere un manuale o farsi aiutare dal proprio figlio sedicenne? Essere molto curiose e osservare un po' tutti i contesti, non farci limitare nell'aiuto, ma io direi, e questa secondo me è una pillola importante, avere la consapevolezza che forse proprio questo è il nostro momento, nel senso che siamo nell'era dell'economia comportamentale, sono i comportamenti umani, le emozioni, la sensibilità, il senso di cura, di appartenenza, insomma l'attenzione, che fanno la differenza nel business oggi. Noi, se siamo clienti, oggi facciamo le nostre scelte su queste basi, e la donna ha davvero, no, attitudini e competenze naturali per esprimere questo tipo di contenuti. Cioè cose che il robot non potrebbe mai dare, no, e che perché invece la sensibilità e anche l'acutezza della mente femminile è in grado di fornire. Assolutamente, ma se ci accorgiamo, per esempio, che siamo solo un chatbot umano, cioè l'azienda ci chiede solo di rispondere entro i tre squilli, di dare risposte preconfezionate, far durare la telefonata 30 secondi, allora certamente potremmo essere sostituiti, no, da sì, un sistema informativo, ma certamente anche quell'azienda sarà facilmente presto sostituita anche dai suoi clienti, e le aziende questo lo stanno capendo e stanno infatti rafforzando le competenze umanistiche e relazionali. E in questo senso collego la terza pillola, noi dobbiamo esprimere noi stesse e questi contenuti, non dobbiamo resistere al cambiamento, perché abbiamo capito che già da tempo è in atto, ma dobbiamo chiedere, no, all'azienda, e avere dall'azienda una comunicazione sempre più aperta riguardo il contributo che noi possiamo dare, le strategie di automazione e come intende valorizzare questi contenuti e come ci può supportare, e questo anche dal punto di vista formativo, no? Prima mi chiedevi con quali strumenti, ma io credo che l'azienda sia un ambito dove davvero si possono ottenere informazioni, aggiornamenti, perché la formazione, l'abbiamo capito adesso, deve durare tutta la vita professionale, sì, non è più una cosa che si conclude con gli anni della scuola o dell'università, deve durare sempre. La cosa meravigliosa è che questo tipo di formazione non è così settorializzata come in passato, cioè non riguarda solo la nostra, cioè noi se siamo al lavoro e la formazione che possiamo acquisire lì, e noi che siamo nel privato e la formazione che possiamo acquisire lì, diventa qualcosa di molto olistico, no? Ed è questo anche l'aspetto di crescita e di miglioramento della qualità della vita di tutti, poter disporre di competenze allargate. Grazie a Carla Ciani e alle sue tre pillole. Buona domenica alla nostra coach. Buona domenica a tutti, grazie Maria. E buona domenica a tutti voi che ci avete seguito. Ci sentiamo domenica prossima.